Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. La strana vicenda di Andrea Rossi e dell'ICAT, la caldaia che funzionerebbe a fusione fredda, indipendentemente da come andrà a finire, un merito lo ha avuto, quello di far riemergere le attività di ricerca in questo settore. Oggi non si parla più di fusione fredda, ma di LEN, cioè reazioni nucleari a bassa energia. Il fenomeno però è lo stesso, e cioè un processo di fusione nucleare che avverrebbe quando dell'idrogeno, oppure del deuterio, che poi è idrogeno pesante, vengono pompati ad alta concentrazione all'interno di un opportuno metallo e poi infine riscaldando il tutto, comunque attivando il processo con una fonte di energia esterna. Disporre di una fonte di energia come l'LNR sconvolgerebbe il panorama energetico, perché si tratterebbe di una fonte virtualmente illimitata, molto intensa, milioni di volte le fonti di energia chimiche e priva di emissioni. Parliamo sia di inquinanti chimici che di radiazioni. Fu qualcosa del genere che Fleischmann e Pons, due noti scienziati, annunciarono nell'89 quando sostennero appunto di aver scoperto la fusione fredda. Tutti però ricordiamo com'è andata: tempo, pochi mesi, e la vicenda venne archiviata come una delle più incredibili bufale della storia della scienza. Eppure nei 20 anni trascorsi sono stati fatti molti passi avanti, sono numerosissime le ricerche che hanno confermato l'esistenza di un qualche tipo di fenomeno di questo genere, ricerche spesso condotte in silenzio e dei cui risultati si è parlato molto poco. Ebbene, questa sera vogliamo darvi proprio un esempio di questa dinamica. Dovete sapere che alcune settimane fa è emerso un documento della NASA, documento che è rimasto disponibile sul sito della NASA solo pochi giorni, ma sono stati molti, inclusi sottoscritto, a scaricarlo da lì, dove a quanto pare era finito per sbaglio, perché pochi giorni dopo è stato rimosso. Il documento è il resoconto di un esperimento sulla fusione fredda che si è svolto nel 2009 presso il NASA Glenn Research Center, uno dei centri di ricerca più importanti della NASA. L'esperimento è stato guidato da Gustav Fralick, scienziato sempre della NASA, che nell'89 aveva già svolto un esperimento simile, anch'esso tenuto a lungo nel cassetto. Il documento riemerso relativo all'esperimento del 2009 descrive la metodologia e i risultati che sono raccolti in una tabella finale e che noi abbiamo chiesto di interpretare a Francesco Celani, che è fisico e vicepresidente della Società Internazionale di Scienze Nucleari della Materia Condensata. Ascoltate. Allora, il documento del 2009 è estremamente importante perché dimostra, fuori da qualunque ragionevole dubbio, esiste una anomalia nel sistema palladio-deuterio che non esiste nel sistema palladio-idrogeno. Quindi è una anomalia che viola in qualche modo le leggi note di chimica e fisica. In parole povere, quando uno immette del deuterio dentro il palladio c'è un eccesso termico, quando lo toglie c'è di nuovo un eccesso termico. Quante, mentre questo invece non accade con l'idrogeno. Con l'idrogeno invece va tutto come aspettato. Immetti dentro l'idrogeno, dentro il palladio, se hai eccesso termico, quando lo togli hai un raffreddamento. Invece qui, quando si toglie il deuterio, si ha un ulteriore, hai sempre calore in eccesso. E questo è una prova di quelle, è la realtà. La cosa importante è che questo esperimento è una replica fatta con strumentazione ancora più raffinata, più aggiornata, più tutto, di un esperimento fatto addirittura nel gennaio del 1989. In quel tempo la NASA e tutti quanti cercavamo eccesso di neutroni, i neutroni non c'erano. Siccome l'obiettivo della NASA era trovare neutroni e non trovarono, ma trovarono questo eccesso termico, il documento non fu pubblicato. Fu dimenticato in un cassetto fino al 2003, finché qualcuno è riuscito a trovarlo per caso. E cosa sarebbe successo se nel 1989 la NASA avesse confermato Fleischmann e Pons? A dicembre 89 fosse stato pubblicato che la prestigiosa NASA, che ha messo l'uomo sulla Luna, ha trovato la conferma delle anomalie di Fleischmann e Pons, del sistema palladio-deuterio, tutto sarebbe cambiato. La storia è strana perché nel 2009 rifanno l'esperimento e di nuovo non viene pubblicato. Casualmente l'ho trovato ad agosto di quest'anno. Cercavo il documento dell'89, ho sbagliato qualcosa a digitare e è uscito quel documento del 2009. D'altra parte qualcosa sembra che si stia muovendo. A gennaio si terrà la conferenza annuale di ISEO, agenzia dell'ONU che si occupa di energia sostenibile, e per la prima volta sono stati invitati a parlare scienziati che studiano la fusione fredda, tra cui il nostro Celani. E pochi giorni fa, sul blog di Stephen Krivit, un noto giornalista scientifico, è apparsa la notizia che la Shell ha ripreso le ricerche sulla fusione fredda. Eppure, come sappiamo, una gran parte della comunità scientifica rifiuta di prendere in considerazione questo fenomeno. Allora ci siamo domandati: ma esiste una teoria, o almeno il nucleo di una teoria, in grado di spiegare questi fenomeni? Ebbene, la risposta è sì, e a elaborarlo fu Giuliano Preparata, uno dei fisici più geniali del dopoguerra italiano. La teoria è conosciuta come teoria della coerenza e chiama in causa alcuni degli aspetti più complessi e difficili della moderna fisica quantistica. Possiamo provare a riassumere così la questione. Ormai da tempo i fisici sanno che alcuni dei presupposti logici su cui è fondata l'attuale teoria fisica dovranno essere necessariamente abbandonati. Questo fatto è espresso dal cosiddetto argomento di Bell, anche se fu il ben noto Einstein a porlo per la prima volta. Non è questa la sede per entrare nei dettagli, ma insomma, secondo Preparata, a dover cadere è il principio per cui la realtà può essere descritta come un insieme di particelle singole indipendenti l'una dall'altra. Cioè che, in qualche modo, in opportune circostanze, tante particelle possano comportarsi come un tutt'uno, quindi in modo appunto coerente. Ed ecco che, secondo questa visione, fenomeni come la fusione fredda diventerebbero possibili. Emilio Del Giudice, fisico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed allievo di Preparata, ci spiega come, mettendo insieme questi tre ingredienti, teoria della coerenza, un opportuno reticolo cristallino metallico e dell'idrogeno, possa venire fuori la fusione fredda. Ascoltiamo. All'interno di questi reticoli cristallini i nuclei di deuterio presenti entrano in una dinamica collettiva per cui si determina un'attrazione tra di loro di tipo elettromagnetico che compensa la repulsione elettrostatica. Se lei vuole cercare traccia di questa dinamica dentro una coppia di nuclei di deuterio non la trova. Cioè, se prende due nuclei di deuterio, quelli si respingono e basta. Se però invece che uno solo ne prende un gran numero e un gran numero li riesce a prendere solo confinandoli dentro un cristallo, perché nel vuoto non li riesce a comprimere, perché quelli si sparpagliano, però dentro il cristallo, superata una certa soglia di concentrazione, parte una dinamica attrattiva per cui a temperatura ambiente, senza spesa di energia, questi nuclei fondono. Per stasera ci dobbiamo fermare qui, ma il primo dell'anno alle ore 17, nel corso di uno speciale Mr. Kilowatt di un'ora dedicato a quanto è accaduto in campo energetico nel corso del 2011, dedicheremo spazio a questa vicenda, tra l'altro mandando in onda l'intervista integrale a Emilio Del Giudice. Qui ci fermiamo, appuntamento a domani.